Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Eccoci, è arrivato, come si dice, il nostro momento, e dato che è giovedì è arrivato il momento della nostra lezione di yoga. Non ce la facciamo mancare neanche questo giovedì, e qua in studio, in carne e ossa, Benedetta Spada. Per voi. Per noi. Senti Benedetta, tu che sei poco in carne, stavo pensando che proprio in vacanza è facile lasciarsi andare un po' a qualche stravizio, perché insomma poi l'Italia è un paese dove si mangia benissimo e tante volte le vacanze sono proprio occasione per assaggiare piatti, ricette, provare il ristorantino, farsi una cena con gli amici. A volte si esagera un po' e rimane, come si dice, un po' sullo stomaco. Allora mi chiedevo se lo yoga in qualche modo, oltre lo yoga non ama le abbuffate, ma sicuramente avrà qualche rimedio per chi si è lasciato un po' andare, per digestioni non dico difficili ma un po' provate, ecco. Sicuramente, anche perché a differenza di quello che si pensa, lo yoga spesso è molto, anche concede molto, insomma, questo, divertiamoci, sì, dai, anche vuole. Un po'. Allora, una postura che magari appunto consigliamo nel tarda mattina o pomeriggio, se il giorno prima appunto abbiamo straviziato un pochino, è sicuramente una torsione. E così siamo seduti a terra sul nostro asciugamano o tappetino d'emergenza, ci portiamo con le gambe distese avanti a noi e inspirando pieghiamo la gamba destra appoggiando la pianta del piede destro al lato del ginocchio sinistro. Espiriamo profondamente, prendiamo un'inspirazione, ruotiamo con il tronco verso il ginocchio, la parte destra del corpo, affinché il braccio sinistro avvolga la coscia destra. Lo sguardo seguirà la spalla destra, certo senza creare tensione al tratto cervicale. Sì. Sembra una posizione un po' da contorsionista, sbaglio? No, è semplicissima. Se tu provi adesso vedi che la fai immediatamente. È semplice perché semplicemente col braccio sinistro avvolgi la coscia destra, non devi far niente, sei anche abbastanza rilassato. Sì. Poi quando respiri cerchi di aprire bene il torace e lì... senti qui tutto il lavoro alla zona addominale. È lì che ti voglio. E lì dovresti anche sentire un miglioramento dell'apparato. Qualcosa che si muove, esatto, insomma. Facciamo lavorare l'apparato digerente. Esatto. Possiamo farcela. Stessa cosa chiaramente sul lato opposto. Sì, perché stiamo sempre consigliando, tu ci consigli, ma ormai mi sento la tua allieva prediletta, anche perché mi vedi, e stiamo però ogni nostro appuntamento consigliamo sempre degli esercizi mirati per un nostro ascoltatore tipo. Esatto. E allora l'ascoltatore tipo di oggi è una signora, ma può essere anche un signore o un ragazzo, che pratica nuoto. Possiamo unire magari un esercizietto yoga proprio mirato per chi si fa massaggiare dall'acqua? Certo, sicuramente. Io aggiungerei anche per chi fa surf, perché aiuta. Allora, una postura che poi siamo anche in tema è la postura del pesce. Noi siamo in acqua. Ecco, questa è molto bella tra l'altro per chi insomma si vuole anche rilassare un poco, e ci portiamo semplicemente a unire le piante dei piedi, sì, rilasciando le ginocchia ai due lati, come anche appunto quella che viene chiamata postura di una farfalla, e rilasciamo il capo lievemente all'indietro. Ci accorgeremo che con l'acqua le gambe inizieranno a salire e lievemente il corpo si porterà in linea. Spingendo un poco, aprendo un poco il torace, lievemente ci inarcheremo e semplicemente staremo a galla. Sì, chiudete la bocca e respirate col naso. Però questo ve lo aggiungo io, perché se no un attimo... Perché ogni tanto c'è. Da questa postura, sempre in maniera dinamica, cosa facciamo? Distendiamo le gambe, le divarichiamo il più possibile e facciamo la stessa cosa con le braccia. E quindi poi espirando richiudiamo le ginocchia, piante dei piedi ben unite e rilasciamo le ginocchia ai due lati. E continuiamo, inspiro distendo le gambe e le braccia e poi riporto, piante dei piedi unite e rilascio le ginocchia. Una decina di volte, questa si chiama la sequenza del pesce e della stella. Per restare quindi in tema. Per i pesci e per le stelle, questo è l'esercizio da fare. Fatevelo voi per noi, perché noi qua non abbiamo un goccio d'acqua. E quindi approfittatene. Benedetta, io ti ringrazio. Noi andiamo ai titoli del nostro sommario. Ciao Benedetta. Ciao a tutti.

Io spesso cito il pesce perché io lo mangio sovente al mattino e la gente storce. Non mi verrebbe tanta voglia di mangiare. Non mi verrebbe, però pensi che da Bellinzona in su tutto il nord Europa utilizza pesce, dalle aringhe al salmone ad altro, dove una colazione, come viene fatta in Nord Africa anche, ma anche in Nord Africa ti portano le polpettine di carne, ti portano le uova insieme ai cereali, ti portano le lenticchie, ti portano le fave. Cioè si cerca un apporto misto proteico come facevano i nostri vecchi, due generazioni fa, in cui il primo momento della giornata era l'unico in cui si potesse mangiare qualcosa anche di proteico insieme. Questo l'abbiamo un po' perso. E dobbiamo recuperarlo. E dobbiamo recuperarlo, anche perché stiamo diventando tutti obesi, santo cielo. Senta, dottor professor Speciani, abbiamo Max da Firenze che ci scrive. La mia colazione è un etto di pane, mezzetto di prosciutto, acqua e caffè. Le piace? Allora, mi manca un qualcosa di vegetale. E la colazione, se fosse il pane integrale, sarebbe perfetto. Manca una parte vegetale, nel senso che serve che Max ci mangi insieme anche una mela, un frutto, perché noi abbiamo bisogno anche di fibra e di fibra sana, vegetale, cruda, qualche cosa che migliori il nostro livello di accettabilità con il mondo e migliori la salute. Sentiamo invece Fabio che ci chiede se la sua colazione va bene. 200 grammi di latte con cacao, 4 biscotti secchi, bastoncini di cereali e un kiwi. Fabio ha aggiunto anche il kiwi, promosso, no? No, va bene, lui la sua parte vegetale ce l'ha, manca un poco di proteine, nel senso che potrebbe introdurre qualche mandorla biologica ottima, quindi con un ottimo contenuto proteico, potrebbe mangiarsi una fetta di prosciutto, mezzo uovo sodo, se fosse un po' all'inglese da questo punto di vista, e direi potrebbe imparare a variare. Uno dei motivi per cui noi italiani siamo spesso intolleranti o al latte o al frumento o al lievito, perché mangiamo sempre latte e biscotti. Allora, se qualche volta magari si passa del pane anziché ai biscotti, piuttosto che non del pane integrale possibilmente, piuttosto che non a qualche tipo di cereale, imparando a variarne la qualità, saremmo ottimo. Però con una piccola variazione, l'ultimo ascoltatore che ha mandato il suo esempio non ha una bruttissima colazione. Senta, però ci arriva un messaggio che è divertente. Sono un artigiano e siamo in 6, ma quanto ci costerebbe la colazione del professore? Assolutamente posso dire con totale serenità che una colazione di questo tipo modifica radicalmente il tipo di appetito che si ha nel corso della giornata. Quindi lei dice facciamo un investimento al mattino e poi a pranzo possiamo star leggeri. Anche perché quello che facevano i nostri vecchi, che così giusto per dire erano comunque molto meno grassi di tutti noi, i nostri vecchi avevano una prima colazione in cui mangiavano formaggio, prosciutto, uovo, quello che potesse essere, e il bisogno di proteine piuttosto che non di mangiare altre cose nel corso della giornata calava. Quindi davvero c'è una riduzione, io mi accorgo quando faccio questa prima colazione che quello è il mio pasto. Quello è il mio pasto. Alla sera, a casa, in realtà ho piccole quantità, cioè la fame è diventata molto, molto più controllata. Perché? Perché c'è già il momento giusto della giornata in cui ho nutrito il mio organismo e quindi cessano tutte quelle sensazioni di ricerca affannosa di cibo che sono quelle che nascono nelle persone che si credono in procinto di morire di fame. Quando uno dà al corpo le cose giuste al mattino nel momento adeguato, questa sensazione passa. Quindi anche dal punto di vista del portafoglio, la quantità complessiva di cibo che poi uno mangia nel corso della giornata cala, si riduce, diventa più contenuta e può essere molto più gestita. Quindi, professor Speciani, se ci dobbiamo fare invitare da lei a pranzo, meglio farci invitare a colazione. No, il pranzo lo mantengo ancora positivo. Va bene. Comunque, guardi che c'è un vecchio detto della scuola salernitana che dice invita l'amico a pranzo e il nemico a cena, proprio per questo motivo. Quindi direi che il richiamo c'è. Io preferisco venire da lei a colazione, perché con benissimo, tutte le cose buone che mangia. Grazie, professor Speciani. Grazie a voi. Buon lavoro e buona colazione. Grazie. Questo bambino sta piangendo, semplice, no? Elementare.

preferisco lasciar cucinare gli altri. Va bene, però lei mi dà qualche dritta. Io vorrei preparare qualche cosa di buono per le persone che, approfittando delle vacanze, amano passeggiare in montagna. E quando è ora di mettere le gambe sotto il tavolo, devono comunque mangiare qualcosa che sia nutriente, ma nello stesso tempo che non li faccia bioccare, come si dice, no? Quindi certo, che sia nutriente, ma al tempo stesso che li sia facilmente digeribile per poter riprendere il passo. Che cosa facciamo di buono per loro? Io cucino, lei suggerisce. Benissimo, allora suggerisco subito, in controtendenza con tutti i panini, parliamo della zuppa di cereali e legumi, che magari parlandone d'estate può sembrare un po' fuori stagione, ma in realtà, soprattutto per le persone che amano passeggiare, che vanno in montagna, l'apporto nutrizionale dettato da una zuppa di cereali e legumi permette agli amanti della montagna di assumere un alimento ricco di nutriente, di glucidi e proteidi in ottima sinergia. Quindi si possono rinfrancare dopo la camminata senza appesantirsi poi per la successiva discesa. Mi lascia fare un po' di soffrittino o no, dottor Temparin? No, no, assolutamente no, perché altrimenti questo può appesantire. Mettiamo tantissime verdure nelle zuppe, così ci danno oligo, elementi e sali minerali, e poi possiamo utilizzare varie combinazioni, per esempio la zuppa di farro e lenticchie, oppure la zuppa d'orzo e ceci. Sono combinazioni le quali cambiano il sapore, ma ci danno un alimento sicuramente completo. Allora, intanto che io sono qua a preparare, sto pensando invece alle persone che, con la testa un po' per aria, mi capita, magari passeggiano in montagna e mettono un piede male e quindi si prendono la classica storta. Dottor Temporin, allora a questo punto ci viene in aiuto l'armadietto dei rimedi naturali? Diciamo che parlando di montagna e dalla montagna ci viene in aiuto una pianta stupenda che è l'arnica montana. Benissimo, e sempre, bisogna sempre tenersela in borsa quando uno va a fare una passeggiata in montagna, vero dottor Temporin? Per scongiurare ogni pericolo, è quasi scaramantico, perché? Secondo me l'arnica montana non dovrebbe mancare mai, perché per chi passeggia, per chi fa sport, in quanto è una pianta eccezionale per i traumi a livello delle piccole articolazioni e delle grandi articolazioni, per le distorsioni e anche per le contusioni. Può essere applicata localmente con un leggero massaggio, magari anche si può fasciare la zona se è dolente. Ecco che l'arnica ci permette di ridurre gli ematomi, di togliere l'infiammazione data dalla distorsione, per cui è di rapido sollievo. Va molto bene anche per quelle persone che dopo aver affaticato molto le articolazioni vogliono avere un'azione antinfiammatoria mirata. Quindi l'unica... non solo per chi prende le storte, ma per chi proprio vuole un po' rilassare una muscolatura che è stata stressata dall'esercizio fisico. Certamente, perché l'arnica montagna si può trovare sia in crema ma anche in olio, per cui va molto bene magari dopo una buona doccia calda applicare dell'olio d'arnica sulle articolazioni dolenti, questo dà un buon sollievo. Devo dare solo un'informazione, l'arnica va molto bene per tutti i traumatismi in cui non vi è escoriazione, perché altrimenti è un irritante. Brucia, sì. Sì, brucia. Io l'ho provata, Non avevo sentito i consigli del dottor Temporin, mi ero preso una storta, c'era un pochino una lieve escoriazione, devo dire che ho visto le stelle. Dottor Temporin, io la ringrazio, oggi siamo andati in cucina anche, quante cose abbiamo fatto insieme, torneremo presto a venirla a trovare o lei venga da noi, insomma ci incontreremo presto. Dottore, intanto buona giornata. Altrettanto un caro saluto a tutti. E per oggi è tutto. Grazie per essere stati con noi. Buona giornata. Noi ci sentiamo come sempre domani dopo il GR delle 11. Vi aspetto. Un saluto da Nicoletta Carbone.